sera tutti quanti, siamo sempre solo noi, siamo dentro ad ogni voglia, siamo dentro ad ogni nota. Quando credi di sognare ed invece è tutto qui, può già essere un inizio, basta solo crederci. E ricerca nelle note e raccontami emozioni, mano a mano che le scrivi sono allora scrive te. Picchiaci e parlaci, prendi fiato e gridalo. Picchiaci e parlaci, prendi fiato e gridalo. Presto il sole arriverà, quando ogni tuo caro amico dove corre non lo sa, tu aiutalo. Loro devono provare la tua stessa energia, scuota il cielo d'un po' d'aria, in un respiro falla tua. Non restare ad ascoltare, non restare fermo, suona, tira fuori le parole.